Granate di riso che esplodono sopra un marito e una moglie. Un bambino soldato combatte in un ventre causando alla madre le doglie. Qualcuno ha sparato, la corsa è iniziata. Chissà chi vincerà, chissà chi vincerà, chissà. Chissà chi vince nella vita, tra chi ama e chi odia, tra chi rimpiange la pace mentre combatte per gloria. Per chi giustifica la morte per volere di Dio. Scusa se vi mando a fare in culo, ma il dito è mio. Io sono ancora qua, con la mia libertà, e non mi va che andare via. Posso lanciarmi pure le bombe, ma non me ne vado da casa mia. Ma questa notte non pregherò soltanto per te, Parigi. Non muore un'idea questa notte, nel mondo esplodono le nuvole, ma in fondo è solo per un poco di cash. Siamo quelli che l'amore non lo impari da un libro, quelli che riempiono uno stadio solo per fare tifo, quelli che dicono alle donne che non piangono mai. Possiamo i primi che amarvi se ci ficchiamo nei guai. Generazioni senza il paraocchi, con davanti un parasputi mica un paracolpi. Rispettiamo le culture dei diversi mondi, perché senza rancore che rimaniamo forti. E forse è vero che la nostalgia non passerà, e che qualche lacrima ti scapperà. Tu che negli occhi è la verità, quel ricordo che c'è dentro non se ne andrà. Tu non l'hai vista la strada, non l'hai vissuta la strada, ma quanta strada che ho fatto con questa voce incazzata. Con una foto stracciata gridavo al cielo da giù, ma se lo stringi ti prometto che il ricordo non andrà mai più. Via da te, da te. Non muore un'idea questa notte, nel mondo nel mondo esplode.